Ancora la vita chi è? E c'è cazzo tutta la dipa che ha sto cazzo di cose. Si ciuta sa bene. Ancora la vita chi è? E c'è cazzo telefonisce a fè. Ma vedi, voglio, ma vedi. Oh.